Alcune persone hanno un solo obiettivo nella vita, quello di dare gloria a Dio. L'intenzione è buona, se non buonissima, ma quello che rende perplessi è che, per dare gloria a Dio, hanno un comportamento molto strano. Alcuni commettono palesemente dei peccati, altri disonorano la fede cristiana, altri ancora non sanno proprio quello che stanno facendo. Eppure queste persone sono convinte di dare gloria a Dio solo per il fatto che nelle preghiere lo lodano, lo ringraziano e dicono di volerlo glorificare. Dato che il tema è importante, è opportuno verificare nella parola di Dio come si può dare gloria a Dio o glorificarlo. Che il Dio della Scrittura vada glorificato è un dato certo, espresso molto bene nel Salmo 96. Date all'Eterno, o famiglie dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Portategli offerte e venite nei suoi cortili. Salmo 96, 7 a 8. Assodato che la gloria si addice al Dio Trino, vediamo in che modo lo si possa glorificare. Innanzitutto, si glorifica Dio con un atto di onestà mediante il ravvedimento. E ciò che troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse. E gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Apocalisse 16, 9. Il ravvedimento è l'atto mediante il quale una persona rivede il suo modo di pensare su Cristo, sul mondo e su se stesso. Tutti abbiamo delle convinzioni in merito a Cristo e a Dio. Ma quando sentiamo il messaggio del Vangelo che proclama la perdizione totale di tutti gli uomini e la salvezza offerta gratuitamente a chi pone un atto di fede nell'opera redentrice di Cristo, allora siamo chiamati a rivedere la nostra opinione. Ravvedersi è riconoscere l'opera di Dio nella nostra vita e accettare che Dio ha l'autorità di scegliere per noi il bene e il male. Gli uomini, descritti nel libro dell'Apocalisse, subivano grandi sofferenze, ma non le accettarono da parte di Dio e si ribellarono. La sofferenza è uno strumento che deve sempre farci riflettere su Dio e noi stessi. Ma molti, quando si trovano nella distretta, maledicono Dio, lo ingiuriano. Molti si difendono dicendo che bestemmiare è solo un'abitudine, ma per Dio questa abitudine non è lecita. E come dire che non faccio nulla di male a dare uno schiaffo ogni volta che parlo con qualcuno solo perché è un'abitudine? L'uomo che vuole glorificare Dio deve ravvedersi, cioè cambiare mentalità e confessare i suoi peccati a Cristo per ricevere il perdono. Altro modo per glorificare Dio è quello di lodarlo. Chi offre sacrifici di lode mi glorifica, e a chi si comporta rettamente gli mostrerò la salvezza di Dio. Salmo 50, 23. Non è possibile lodare qualcuno se si ha contro di lui dei rancori o non se ci è accordo. Nessuno può essere riconoscente nei confronti di Cristo, considerandolo un martire o il figlio di Dio soltanto. E come riconoscere che Salomone era l'uomo più sapiente di questo mondo ed è figlio di un grande re? Tutto questo mi lascia indifferente. Perché io possa essere riconoscente verso qualcuno, prima devo aver avuto con questo un rapporto tale da conoscerlo e conoscerlo come un grande benefattore nei miei confronti. Se questa persona era conosciuta da altri ed era magnanima verso altri, posso io essere riconoscente nei suoi confronti? Posso apprezzarlo, lodarlo per l'altruismo, ma non posso essere riconoscente. Così è per Cristo. Gesù è morto in croce per riconciliare l'uomo a Dio, ma se questo atto non diventa una realtà per me, come posso dirgli grazie di avermi salvato e riconciliato con Dio? Così chi offre preghiere di ringraziamenti glorifica Dio perché riconosce il suo meraviglioso carattere. Ci fu un uomo che glorificò Dio in modo particolare, Abramo. Egli aveva ricevuto dall'Eterno la promessa di un figlio. Ma Abramo e sua moglie erano vecchi, troppo vecchi. Così commenta l'apostolo Paolo questo episodio. E, non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, Romani 4, 19 e 20. Con un atto di fede Abramo glorificò Dio. Spesso si pensa a grandi cose per glorificare Dio. Si pensa di dover dividere il mare, di passare per il fuoco senza bruciarsi. Ma è sufficiente credere alla promessa di Dio. Dove si trovano queste promesse? Nella sua parola. La Bibbia, la parola di Dio, è un libro pieno di promesse. E chi vuole glorificare Dio dovrà prima leggerla e studiarla, e di conseguenza compiere il bene e rifiutare il male in essa descritti. Molti sono coloro che affidano la loro anima ad una guida spirituale, ma non hanno il coraggio di leggere la parola di Dio per ubbidirla. Chi vuole glorificare Dio deve avere la fede che produce una costante lettura della parola di Cristo. Una fede messa in pratica vale più di 1000 opere sociali. Vi è un modo di glorificare Dio che non piace a nessuno, e per questo pochi lo fanno. Nel periodo che il popolo di Israele conquistava la terra promessa, distrusse la città di Ai. Un certo condottiero di nome Acan si impadronì illecitamente dell'oro e dei vestiti. Causa questo suo gesto, il popolo non poté conquistare la città successiva, e l'Eterno rivelò a Giosuè che c'era tra loro un colpevole. Dopo aver tirato a sorte questa cadde su Acan, e Giosuè gli disse: «Figlio mio, ti prego, da gloria all'Eterno, il Dio di Israele, confessa a lui e dimmi ciò che hai fatto, non me lo nascondere». Giosuè 7:19, Acan doveva confessare il suo peccato per dare gloria a Dio. Anche la confessione di peccato è un mezzo per dare gloria a Dio, come lo è avere fede o essergli riconoscente, con la differenza che confessare di aver sbagliato è umiliante. Una persona che ama Cristo e il suo regno più di se stesso lo dimostra non solo quando è chiamato a fare l'eroe, ma anche quando è chiamato ad umiliarsi. E da notare che l'insegnamento che ci giunge dalla parola di Dio non riguarda tanto una confessione generica di colpevolezza o di erroneità. Acan, per glorificare Dio, non era chiamato a dire «sono colpevole», ma doveva confessare davanti a Mosè, all'Eterno e al popolo la propria colpa specifica, in questo caso l'essersi impadronito illecitamente di parte del bottino. A questo siamo chiamati pure noi, affinché chi riceve la nostra confessione abbia ben chiaro che cosa gli stiamo chiedendo di perdonare. Così, chi vuole veramente dare gloria a Dio e non ha realizzato la nuova nascita, deve confessare le proprie colpe a Dio per accettarne il perdono già offerto in Cristo. Le colpe, come ho appena detto, vanno confessate a Dio, non a un uomo, perché secondo l'insegnamento della Scrittura, solo Dio può perdonare i peccati. Quanti sono coloro che glorificano Dio in questo modo? Nel cattolicesimo romano, quanti sono i credenti che hanno confessato a Cristo i loro peccati per accettare un perdono gratuito e ricevere subito la vita eterna? Il pentimento, l'umiliazione, la confessione dei peccati sono atteggiamenti che glorificano Dio quanto coloro che operano miracoli. È bene tenere presente questo aspetto, perché vi sono persone che vorrebbero dare gloria a Dio ma non sanno come fare, oppure pensano di non glorificare Dio mentre lo fanno ogni giorno. Purtroppo lo spirito di questo secolo non incoraggia le persone all'umiliazione, alla confessione di peccato, perché tutto è diventato relativo e ogni comportamento o parola è lecita. Per il presente secolo malvagio il peccato è solo una opinione o un fatto di cultura, e così la creatura ha perso l'occasione di glorificare il Creatore con la confessione di peccato. Infine, si può glorificare Dio proprio nel momento peggiore della nostra vita, quando pensiamo che non sia possibile, e cioè quando ci si trova nei momenti più difficili. Offri a Dio sacrifici di lode e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. Invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Salmo 50:415. Trovarsi nelle difficoltà è normale. È tanto normale che spesso non si invoca Dio. La Scrittura non dice di pregare Dio perché le preghiere costituiscono l'anima del religioso, ma di invocarlo, il che presuppone una preghiera accorata e insistente. Il Dio dei cristiani è sempre attento alle preghiere dei suoi figli, anche se non sempre risponde, perciò vi è la promessa di un esaudimento, affinché chi è esaudito possa glorificare il suo Salvatore. Glorificare Dio perché si è stati liberati nell'avversità significa proclamare come Cristo sia intervenuto. Nel libro degli Atti troviamo scritto che l'Apostolo Paolo per 3 volte testimonia della sua conversione, mentre nelle sue lettere di tanto in tanto fa accenno come Dio abbia usato misericordia nei suoi confronti. Chi desidera glorificare Dio deve innanzitutto diventare un figlio di Dio mediante una fede personale in Cristo, quale Salvatore e Signore, poi lodarlo per la salvezza ottenuta, camminare per fede, confessare i peccati commessi e invocarlo nei momenti difficili della vita. Questa dovrebbe essere la normale vita di ogni uomo e donna. Purtroppo pochi sono coloro che glorificano Dio in questa maniera, e per loro vi è un severo giudizio, lo stesso giudizio che dà l'Eterno ai sacerdoti che non avevano camminato rettamente. E ora questo comandamento è per voi, o sacerdoti. Se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dar gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni, sì, le ho già maledette, perché non vi mettete questo in cuore. Malachia 2:1-2. Sono parole dure che l'Eterno rivolge a chi non lo glorifica, perché in tutte le cose vi è il rovescio della medaglia. Più ha valore una cosa, più è il danno per la sua perdita. Così, se glorificare Dio è uno degli atteggiamenti più importanti, la mancanza di questo produce la maledizione di Dio. Dura sentenza che può essere evitata con un atto di volontà ed amore. Marzo 2006. Ellero.